A bordo campo di Dario Ricci. Divise dal Datagate e da Edward Snowden, questo inafferrabile ex agente della CIA, protagonista dello scandalo delle intercettazioni dei dati informatici e telefonici, che sta surriscaldando nuovamente l'asse tra Washington e Mosca. Ebbene, divise da questo scandalo, le due grandi capitali di quella che era stata la Guerra Fredda si ritrovano unite da una scacchiera e da una storia di prigioni, di campioni, che ruota intorno a re e regine degli scacchi. Una storia che ci racconta in diretta da Mosca proprio la nostra ospite di oggi, Cristina Giuliano, corrispondente dalla Russia per l'agenzia TM News. Benvenuta Cristina oggi a bordo campo. Grazie per il benvenuto e buongiorno a voi. Beh, Cristina, davvero ci hai segnalato tramite una tua bellissima intervista che ora racconteremo una storia particolare, una storia che unisce e che ha unito anzi due penitenziari, uno nella contea di Cook, siamo nell'area di Chicago, nell'Illinois, e anzi più di due penitenziari, ben cinque istituti penitenziari della Russia. Collettore di questa vicenda, di questo legame tutto informatico, un nome che per chi ama gli scacchi, ma direi anche per chi non li frequenta abitualmente, è una leggenda, quella di Anatoly Karpov, il campione del mondo dal 1975 all'85 per l'allora Unione Sovietica e poi campione del mondo anche sotto la bandiera della Russia dal 93 al 99. Ecco, come vanno a unirsi tutti questi pezzi del puzzle, Cristina? Ma Karpov è sempre stato molto impegnato sia dal punto di vista sociale che da quello politico. Già ai tempi dell'Unione Sovietica era parte della nomenclatura e ha continuato a essere parte di quella che è la politica, ma la politica più positiva, quella che ha un significato anche sociale, ed è stato l'ideatore di un programma, ma stiamo parlando già degli anni 90, quindi di parecchio tempo fa, un programma che riguardava le colonie penali, in particolare quelle russe. Quindi stiamo parlando di circa 15 anni fa, quando introdusse il programma Scacchi nelle colonie penali, ed è stato inizialmente accolto con grande scetticismo anche dallo stesso ministro della giustizia, ma poi successivamente questo programma iniziò a piacere veramente tanto, perché permetteva di dare un'opportunità ai detenuti che uscivano dal carcere ed erano totalmente fuori dalla società, non avevano difficoltà a reinserirsi, soprattutto in quello che è la seconda parte degli anni 90 in Russia. In questo contesto nasce un'idea che poi alla fine è piaciuta oggi, in questi mesi, allo sceriffo di Chicago, che insomma è qualche cosa di un po' diverso, in un mondo che è per tanti versi diverso, ma forse anche un po' simile, proprio anche guardando certe vicende che riguardano spie e spioni, che appunto Sì, ricordavi poco fa. Le comunanze non sono poche. Tra l'altro è importante quello che già ci hai detto, perché bisogna far capire anche e capire noi stessi che giocare a scacchi in Russia è quasi essere parte della società, no? Nel senso che è un'attività quasi connaturata con l'essere russo tout court, no? Assolutamente, tra l'altro ci sono scuole, ci sono delle vere e proprie lobby, come può capitare anche per il judo, guarda caso, dove ricordo che c'è un nostro carissimo amico mio e tuo che è Gamba, che è il grande trainer della grande squadra di judo russo, che è diventato ormai entrato nei cuori di sua altezza Vladimir Putin dopo le straordinarie olimpiadi londinesi, no, della squadra russa. Assolutamente, come non amarlo, perché insomma ha regalato veramente grandi, grandi vittorie e grande gioia a Vladimir Vladimirovich, ma anche insomma ai tifosi, quelli semplici, quelli normali, poi facendo vincere tra l'altro persone che vengono da realtà come il Dagestan, insomma molto difficili. Così sono anche gli scacchi esistono delle scuole scacchistiche che prendono i bambini almeno da 4 anni, a volte anche da 2, quando appunto il computer, ahimè, purtroppo è entrato già nella loro vita. E comunque le scuole, c'è ad esempio un'altra scuola molto, molto famosa qua in Russia, che è quella fortemente sostenuta dal vice premier Arkady Dvorkovic, e appunto questo nome in realtà per gli esperti di scacchi suona non tanto per la politica, perché appunto si tratta del vice premier, perché comunque è stato il consigliere del presidente e di fatto anche un ottimo amico dell'Italia, ma soprattutto per il padre. Dvorkovic infatti era uno degli arbitri più importanti all'epoca di Kasparov e di Karpov, ed è stato per entrambi un allenatore. Beh, straordinarie queste dinastie scacchistiche a cui ci stai avvicinando, Cristina. Il programma sviluppato da Karpov, come sottolineavi, si chiama Mondo Libero. Di fatto, detenuti degli istituti penitenziari di Astrakhan, Samara, Saratov e Katerinenburg, e della regione di Krasnodar, hanno potuto sfidare attraverso il PC detenuti del carcere della Contea di Cook. Ha spiegato nell'intervista che tu gli hai fatto, Karpov, che attraverso gli scacchi si impara la disciplina e soprattutto a capire quali sono le conseguenze delle proprie azioni, no? Questa direi che è la chiave educativa di questo progetto. Assolutamente, ma raccontava anche cose molto divertenti, insomma, per chi magari come noi a volte ci avviciniamo a una scacchiera e magari giochiamo perché sappiamo più o meno come si muovono le varie, come si muovono i pedoni piuttosto che le torri, però non abbiamo idea di che cos'è la strategia scacchistica. Invece lui spiegava anche che non solo è un insegnamento e ti insegna ad essere uno stratega della tua vita, ma è anche un grosso consumo di energie. E addirittura quando gli dicevo: ma come mai voi campioni, insomma, non rimanete campioni, in fondo è un'attività principalmente mentale, e dovete, in fondo ultimamente, insomma, le persone rimangono lucide a lungo, mentre invece magari il fisico cede. E lui mi spiegava che in realtà non è semplicemente una fatica mentale, ma è veramente una fatica fisica, e si perdono un sacco di calorie a giocare a scacchi, quindi potrebbe essere anche questo. Non è fa anche bene alla linea, insomma. Probabilmente sì, almeno lui così ritiene. Beh, tra l'altro è anche vero che sia lui che Kasparov, soprattutto forse Kasparov, introdussero di fatto nell'attività scacchistica anche la preparazione fisica, no? Proprio a sottolineare come l'integrazione fra mente e corpo non possa certo essere disgiunta intorno alla scacchiera. Beh, uniti dalle sfide intorno alla scacchiera, Karpov e Kasparov però sono fortemente divisi dal loro rapporto con Vladimir Putin, no? Karpov ne è un chiaro sostenitore, Kasparov uno dei più acerrimi contestatori. Ecco, nell'incontrare Karpov, come avete ragionato dello zar di tutte le moderne Russie? Quello che hai detto è più che vero, nel senso che Garry Kasparov è un sostenitore dell'opposizione, uno strenuo sostenitore. Recentemente c'è stato un suo annuncio: non vuole tornare in Russia perché teme di essere fermato dalla polizia proprio per aver partecipato a tutte le manifestazioni, e anche alla luce di quello che da molti viene indicato come una stretta, un giro di vite sulla democrazia voluta dal terzo mandato di Putin. Sicuramente per Karpov, Kasparov è stato uno dei più grandi avversari sulla scacchiera. Dal punto di vista politico è anche vero che Karpov appartiene al fronte putiniano, al quel fronte che si sta formando come il nuovo e vero partito di Putin, quello che non è dei corrotti come è stato descritto Russia Unita. Però contemporaneamente Karpov dal punto di vista politico e comunque umano non ha mai totalmente preso le distanze da Kasparov. Anzi, una volta, quando era stato fermato dalla polizia dopo queste le solite manifestazioni che si ripetono e purtroppo molto spesso finiscono con il fermo per i leader, ecco, Karpov è andato a trovare Kasparov, e sicuramente c'è una certa solidarietà, anche se da posizioni notevolmente diverse. In realtà da quello che mi è sembrato parlando con Karpov, e questo è veramente singolare, il vero nemico scacchistico di Karpov resta comunque Bobby Fischer, il folle, quello con cui lui non ha mai potuto giocare, e appunto dovevano incontrarsi, il match saltò. Lui sostiene, insomma Karpov sostiene che in realtà Fischer non tanto temesse lui quanto temesse se stesso, però se vuoi è anche divertente che appunto i penitenziari russi abbiano giocato con uno dei più grandi penitenziari al mondo, che è quello appunto di Chicago, perché appunto da Chicago viene anche Bobby Fischer, e quindi insomma diciamo che quella partita che non ha mai giocato contro Fischer l'ha giocata contro Chicago, e quindi in fondo l'ha giocata lo stesso. In qualche modo questo vuoto della storia scacchistica è stato colmato. Beh, davvero interessante questa storia che ci hai raccontato, Cristina. Toglici però una curiosità: ti ha dato qualche suggerimento Karpov? So che sei una discreta giocatrice dilettante, una mossa a sorpresa? No, purtroppo no, però mi ha promesso che magari, se insisto, piglia il mio piccolino, mio figlio, per a scuola, magari, chissà, magari diventa un campione italiano, che ne sai, tutto può essere. E allora aspettiamoci nei prossimi anni qualche scacco matto a sorpresa da parte del piccolo Antonio. Intanto grazie a Cristina Giuliano, corrispondente da Mosca di TM News, per essere stata nostra ospite oggi qui a Bordo Campo. Ciao Dario, grazie a tutti. A Bordo Campo di Dario Ricci. Un salto triplo verso il futuro, un salto triplo sulla pedana dell'atletica leggera, ma anche un salto triplo nel mondo dello sport e della solidarietà. È quello che facciamo oggi a Bordo Campo, e bastano queste poche parole di introduzione per capire che dall'altra parte della cornetta del telefono abbiamo un ospite davvero d'eccezione, campione europeo outdoor e indoor, un oro ai giochi del Mediterraneo e soprattutto un bronzo olimpico conquistato sulla pedana magica di Londra 2012, che brillerà per sempre nella sua bacheca. Vero Fabrizio Donato, benvenuto oggi a Bordo Campo. Buongiorno, buongiorno a tutti, grazie. Eh sì, brilla, e spero che continuerà a brillare ancora per parecchio tempo a questo punto. Senti, ma questo dove la conservi questa medaglia? Perché ognuno c'ha di voi campioni la sua scaramanzia, no? Per esempio Elisa Di Francisca, che ha vinto il doppio oro nella scherma sempre a Londra, le porta sempre con sé le medaglie. Qualcuno le mette in un caveau di una banca per essere sicuro al 100%. Tu quel bronzo dove lo conservi? Ma devo dire la verità che in questi 8-9 mesi la mia medaglia è stata in più posti, sempre al mio fianco chiaramente, ma in più posti. Il più simpatico è stato nei primi periodi, ovviamente, che era a fianco al mio letto, nel mio comodino della cama da letto, e era troppo bello e divertente la sera prima di addormentarsi salutare la moglie e la figlia, chiaramente, e salutare la mia medaglia. Sì, insomma, si salutava. E non vi nascondo che la mattina svegliarsi e buttare un occhio sul comodino e vederla lì a fianco era sempre divertente ed emozionante. Meglio del caffè, insomma, dai, per svegliarsi. Beh, Fabrizio, a distanza di quasi un anno ormai da quella straordinaria gara che poi vide Daniele Greco, l'altro azzurro, il tuo rivale, ma anche tuo compagno d'avventura, al quarto posto, qual è l'immagine, il ricordo più dolce di Londra 2012 che conservi? Beh, sicuramente i complimenti di Daniele, che sono veramente venuti dal cuore, mi rendo conto che ogni volta che ci confrontiamo, al di là di chi vince, fra noi c'è una grande solidarietà, un grande affetto, direi. Ecco, dal punto di vista tecnico invece come vi rapportate? Nel senso che grande rivalità, ma c'è anche uno scambio di conoscenze tecniche, tu sei più esperto, lui il giovane rampante, come dialogate? Ecco. Beh, è chiaro che a nessuno piace perdere, quindi quando siamo in gara in pedana i consigli sono veramente pochi, perché chiaramente ci sono i nostri allenatori in tribuna e sono loro che ci consigliano. Però in dei meeting dove ovviamente le tensioni sono un po' più basse, dove sono gare tra virgolette meno importanti rispetto ai mondiali, europei, olimpiadi, molto spesso ci consigliamo e ci confrontiamo. Alcune volte da più esperto riesco a capire delle situazioni in gara e dargli dei consigli preziosi, cari, che lui può mettere subito in atto. Quindi è importante avere al fianco probabilmente una persona un po' più esperta, in modo tale di riuscire a correggere eventuali errori in pedana. Dalle parole che dici e dal tono con cui le pronunci, direi che la strada è tracciata verso Rio 2016, sarà quello comunque il prossimo obiettivo, perché insomma quando uno ci comincia a prendere gusto col podio olimpico viene voglia di restarci, no? Beh, non ti nascondo che l'appetito viene mangiando, ma lo è sempre stato nella mia vita, un po' in tutto, non solo nello sport. Cerco sempre di migliorarmi, cerco sempre di guardare avanti. Rio è un altro sogno, fino a qualche mese fa il mio sogno era una medaglia olimpica, adesso il mio sogno si è un po' spostato, chiaramente. Però non vi nascondo che ci penso spesso. Chiaramente cerco di ragionare, di guardare anno per anno. Quest'anno ci sono i mondiali a Mosca, quindi il mio obiettivo è questo. Alla mia tenera età non posso fare progetti troppo lunghi, perché chiaramente il fisico deve rispondere in maniera opportuna per essere competitivo. Quando parliamo di fisico, il fisico va ascoltato e soprattutto va rispettato. Mi accorgo alcune volte, devo stare attento, perché gli infortuni sono di l'angolo, i tempi di recupero sono un po' cambiati negli anni, ma comunque sia penso che se sono bravo a gestirmi, a centellinare in qualche modo le gare, posso andare avanti ancora per qualche anno e chissà se ne riuscire a realizzare l'altro sogno, chiaramente. Beh, è quello che ti auguriamo, tra l'altro ricordiamolo per i nostri ascoltatori, Fabrizio Donato, un classe 76, quindi insomma davvero chapeau, ecco, viene da dire. Dicevamo appuntamento, si ragiona anno per anno e ricordavi che fra poco, ad agosto, l'appuntamento sarà con i mondiali di Mosca. Quanto pesa quel bronzo olimpico di Londra in vista della rassegna iridata, Fabrizio? Più responsabilità oppure è uno slancio ancora maggiore? Io penso che sia uno slancio, in qualche modo me lo sono dimostrato, perché nell'ultima tappa della Diamond League dello scorso anno a Zurigo arrivavo con questa medaglia importante addosso, in qualche modo dovevo difenderla, ero un po' spaventato all'inizio, poi probabilmente mi ha dato la spinta in più per vincere la gara battendo il campione olimpico, quindi penso che su di me questa medaglia sia un'ulteriore spinta in più per andare avanti e per difendere un qualcosa di caro che ho addosso, chiaramente. Obiettivi senza frontiere, quelli di Fabrizio Donato, come state ascoltando, ma anche Sport senza frontiere, che è l'associazione L'Onlus di cui sei testimonial e che tra l'altro è il vero motivo della nostra chiacchierata, perché impegnato sulla pedana del triplo, ma impegnatissimo direi anche a bordo pedana, Fabrizio, con i progetti di Sport senza frontiere. Ecco, a cosa vi state dedicando in particolare in questo periodo? Beh, ho scoperto un mondo particolare che non conoscevo, sono stato fortunato, perché chiaramente mi ritengo fortunato di aver incontrato al mio fianco delle persone brave, importanti, persone che hanno voglia di fare del bene a dei bambini. Capite benissimo che quando si parla di bambini sono particolarmente sensibile su questo discorso, perché ripeto, sono un po' più grande, ho una figlia e quindi sono molto sensibile verso di loro. Vedere lo sguardo di questi bambini, vedere queste persone che con tutto l'anima, con tutto il cuore si dedicano a delle persone un po' meno fortunate di me o di mia figlia, ha fatto sì che io mi avvicinassi a loro. Sono riuscito addirittura a farmi correre la non competitiva della maratona di Roma, e credetemi, ero un ciclista, per me che corro massimo 48 metri e sarei in corsa, correre 5 km a Roma è stata un'impresa. Una bella sudata, eh? Però divertente, perché correre con i bambini, correre con la mia famiglia a Roma, nella mia città, chiaramente, è stata veramente una grande cosa, emozionante. Poi, ripeto, quando si fa un qualcosa di bene, di buono per i bambini, non c'è sacrificio, chiaramente. Tanti i progetti che Sport Senza Frontiere coltiva e sviluppa in diverse città italiane, e non solo, per favorire l'integrazione di bambini e minori con problemi di adattamento e di disagio sociale. Troviate tutte le informazioni sul sito sportsenzafrontiere.it. Ecco, da questo punto di vista, Fabrizio, quali obiettivi ti sei dato? Che 2013-2014 sarà quello della solidarietà sotto questo profilo? Ma io penso che quando si fa solidarietà, quando ci si avvicina ad un onlus, non ci si possono porre dei limiti, delle scadenze, quindi vado avanti cercando di aiutare il più possibile e non vi nascondo, e questo lo dico in anteprima e non lo sanno neanche loro, però visto che ci siamo, e non volevo neanche dirlo, ma visto che ci siamo mi fa piacere parlarvene. Il 4 luglio parteciperò probabilmente alla mia prima gara, sarà il mio esordio stagionale, e parteciperò probabilmente alla tappa da Diamond League di Losanna, quindi un appuntamento importante dove incontrerò sicuramente il campione olimpico e altri avversari degni di questo nome. Se tutto dovesse andare bene, come io spero, e se io riesco a fare una grande gara, a fare un buon risultato, una parte del mio premio probabilmente andrà a loro, quindi questo penso che sia importante. Beh, allora Fabrizio Donato, motivo in più per spingerti a tutta velocità, anche noi di A Bordo Campo lo facciamo su quella pedana del triplo, arriva lontanissimo a Losanna e poi a Mosca, mi raccomando, sempre nel nome dello sport sano, pulito e di Sport Senza Frontiere, da parte di A Bordo Campo un grazie per essere stato nostro ospite e un grande in bocca al lupo. Grazie a voi, seguitemi, seguiteci e se potete dateci una mano con i ragazzi di Sport Senza Frontiere e crepi il lupo ovviamente. Per A Bordo Campo di oggi e di quest'anno è tutto e quindi grazie a Pietro Lacorte e anche a tutti i tecnici che hanno permesso la realizzazione anche di questa edizione di A Bordo Campo e grazie a voi ascoltatori che ci avete seguito con attenzione e con passione. Continueremo a dialogare insieme anche durante l'estate, l'indirizzo mail è sempre quello, abordocampo@radio24.it, e continueremo anche a farci compagnia perché andranno in onda le migliori puntate di questa stagione di A Bordo Campo. Potete inoltre riascoltarci, come sapete, attraverso il nostro sito internet www.radio24.it. Insieme al grazie non rimane che rinnovarvi anche l'appuntamento per settembre. Grazie di tutto e ancora una buona giornata da Dario Ricci.